crescono i quartieri, mi guardo sempre intorno, avvolgo i miei segreti nei vicoli in un fondo e ascolto con l'orecchio teso nel posto, contrabbando rime nuove dal porto in tutto il golfo. Assolvo un compito metodico, il tragitto sempre il solito, mi scomodo a non attirare l'attenzione, uccido l'attenzione, poi corro alla stazione, non parlo di brignole, è punto 89, contrabbando nel doppio fondo, nascondo rime metriche assassine, illegale nel vinile, incise nelle ferite come sale, ma non sottopongo il rap al vostro cazzo di tribunale. Nelle sere delle Iene vuoi ballare in disco, io vendo i concerti nelle jam, nelle distro, se la mia rima la confisca il fisco, in 100.000 pirati duplicheranno il mio disco. Per le nostre strade rap d'assalto, lo sguardo al mare, spingiamo rap di contrabbando, nelle sere vuote, nell'etere sul palco, nelle nostre vene solo rap di contrabbando. Per le nostre strade rap d'assalto, lo sguardo al mare, spingiamo rap di contrabbando, nelle sere vuote, nell'etere sul palco, nelle nostre vene solo rap di contrabbando. Contrabbando merce rara, vecchia zena, mi masnara, solo hardcore nell'iPod fino al giorno della bara. E anche se cambia la strada, la mia meta resta fissa, mentre srotolo la niccia e voglio attorno morfaia. E se Dio mi toglie il fuoco, sarà il vento che la piccia, sarà un'altra sera grigia, questa baia radioattiva. La paura toglie il fiato, sarà l'odio, la benzina, sarà rabbia accumulata, chiuso al buio nella stiva. Un altro carico che arriva nel mio porto, masterizzo sul supporto, un altro viaggio ed ho risolto questa merda. Mentre salgo San Bernardo con la merce nello zaino, chiudo gli occhi, allungo il passo con il cuore che martella. Contrabbando verità, sopracciti di distorsioni, la dogana non li trova, mica può vedere i suoni. Ma l'impero ci rincorre, la superba ci nasconde, mentre cerco le risposte che fanno cadere i troni. Per le nostre strade rap d'assalto, lo sguardo al mare, spingiamo rap di contrabbando, nelle sere vuote, nell'etere sul palco, nelle nostre vene solo rap di contrabbando. Per le nostre strade rap d'assalto, lo sguardo al mare, spingiamo rap di contrabbando, nelle sere vuote, nell'etere sul palco.